La situazione è degenerata negli ultimi giorni, però sono da diversi mesi che ci sono appunto centinaia di migranti provenienti da paesi come l'Afghanistan, da quando la situazione è degenerata nel paese, ma anche dall'Iraq e altri paesi, che si trovano appunto bloccati tra il confine della Bielorussia e il confine della Polonia. Questo perché Lukashenko, appunto il presidente della Bielorussia, ha favorito inizialmente, per ragioni soprattutto di tipo politico, dato che la situazione anche in Bielorussia politica, come abbiamo visto l'anno scorso con le elezioni dell'estate 2020, è degenerata e in particolare la Polonia ha fatto pressioni anche per l'adozione di sanzioni nei confronti della Bielorussia e ha accolto un numero abbastanza elevato di profughi bielorussi, in questo caso in Polonia. Per effetto di questa partita un po' a ping pong sulla pelle di queste persone, Lukashenko ha in qualche modo incentivato e non ha impedito in alcun modo il passaggio di questi migranti dal Medio Oriente, e ha in qualche modo spinti al confine con la Polonia. Il problema è che la crisi umanitaria è che queste persone si trovano da un lato impossibilitate a restare in Bielorussia, perché Lukashenko tramite forze dell'ordine spinge queste persone sul confine, dall'altro lato la Polonia non è disposta ad accoglierle e le respinge al proprio confine. Quindi, e questa è una cosa che abbiamo visto in realtà anche sulla rotta balcanica, soprattutto nel tratto appunto croato, no? Croazia-Serbia, queste persone si trovano a fare una tremenda marcia, no? Nel gelo, perché a novembre non è una stagione favorevole neanche da questo punto di vista, tra un confine e un altro, senza poter entrare o chiedere asilo in nessuno di questi due paesi, e in condizioni appunto igieniche precarie, perché come è stato osservato anche da Amnesty International, queste persone comunque non vengono fornite nemmeno medicine, nemmeno beni di prima necessità. È una crisi umanitaria di cui appunto nessuno sembra volersi fare carico al momento. Quindi insomma, da parte della Bielorussia c'è una sorta anche di uso strumentale di questi migranti per protestare contro le sanzioni che l'Europa ha imposto alla Bielorussia? Esattamente, e anche contro il sostegno che viene dato appunto ai profughi dalla Bielorussia, perché ovviamente sono, diciamo, dalla prospettiva del regime si tratta di sostanzialmente traditori, anche se ovviamente è molto facile diventare un traditore in Bielorussia nel contesto attuale. Per esempio, un attivista che appunto è diventata attivista a suo malgrado, no? In un'intervista che avevo sentito raccontava appunto, lei era una modella fondamentalmente ed è stata licenziata e poi è iniziato a essere appunto interrogata dalla polizia per aver semplicemente detto sul proprio Instagram come mai noi siamo aperti se c'è il Covid e le altre nazioni no. Quindi è molto facile diventare appunto profugo, abbiamo visto nel caso dell'atleta olimpica. Non c'è la capacità da parte di Lukashenko di accettare che queste persone abbandonino la Bielorussia, che possano creare soprattutto una diaspora bielorussa che gli è ostile. Però questa scelta, no, di quest'arma di ricatto, no, su appunto questi profughi che vengono quindi ammassati al confine, in realtà probabilmente secondo alcuni analisti, secondo anche tanti attivisti, alla fine potrebbe creare ulteriori problemi al regime stesso, perché si tratta di persone senza cibo, medicine, una prospettiva anche di un futuro, no? La possibilità di fare una richiesta di protezione internazionale, di poter appunto trovare un lavoro in concreto, che ha centinaia di persone, no, presenti sul territorio senza niente, e questo crea anche alla fine problemi di sicurezza. Quindi in realtà la situazione anche nelle città inizia a diventare sempre più pesante. Infatti sono anche riprese delle proteste in Bielorussia e proseguono gli arresti da parte del regime, anche se i giornali, diciamo, ne parlano meno, e la situazione non è sicuramente a livello delle proteste dell'anno scorso, però si stanno scatenando nuove manifestazioni, nuove proteste.